racconto com'è stato quando lui mi ha salvato in quella chiesa, mi ha riscattato, le lacrime scorrevano sul mio viso, non so cosa mi stesse capitando di preciso, era come se il tempo fosse bloccato, il mio corpo per un attimo ha tremato, il cuore batteva impazzito, non avevo le forze di alzare un dito, la mia vita mi passò davanti, tutti i problemi non erano più giganti, in quel momento in me sei entrato, i miei occhi fissi su quel pane consacrato, se esisti vieni fuori adesso, io ti ho sfidato, ti ho sentito addosso, la tua mano mi ha allungato, nel mio cuore le parole vieni figlio ti ho salvato. Che mai salvato. Sei entrato, in me tutto è cambiato, i piedi sulla roccia io poggiato, è tornato il sorriso sul mio viso, ora so cosa mi sta capitando di preciso, gli apostoli nel cenacolo, la storia la sapete, la Pentecoste in me si ripete, il cuore batte regolare, le mie forze per un fuoco da donare. Quante vite oggi mi passano davanti e dono loro i tuoi insegnamenti, apriamo a Cristo i nostri cuori e fusione nello spirito a chi sta fuori, ora so che esiste e ve lo testimonio, vivo la mia vita per combattere il demonio, la sua misericordia è infinita, ha salvato un peccatore come me era la mia vita. È lì che m'hai salvato. Era Pentecoste, il 27 maggio 2007. Mi trovai a Brescia, nella chiesa di San Luca. E lì, fui salvo per miracolo. Grazie Cristo, salvo. Grazie Cristo, mi hai donato una vita nuova.